tienen que saber que la cumbia es el futuro. Mica per niente, che oggi io non c'ho proprio uno stato d'animo da piss rastafariana, ecco, quindi proprio, anzi già messo a lavare la giacca, perché oggi proprio mi sfrego le mani. Be ready. Pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole e musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003 y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tutti i giovedì dalle 17 su 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti i giovedì dalle 17 su 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Todos los jueves a las 17, la esquina del sur, Tutti Frecuencia y Radio Onda Rosa. Esta vida, pero yo tengo medicina, el curita para la herida. No son seres místicos ni santos eclesiásticos, pero salvan mi vida y me ahorran el psicólogo. Mis amigas son antídoto en este mundo caótico. Somos más que solo chismes y cosméticos. No les creas, amiga, no les creas. No es cierto, la traición no nos corre por las venas. Nadie dijo que somos diosas perfectas, al contrario, vamos a bañarnos juntas en la hoguera. Malos ejemplos, comportamiento imprudente, fines de semana, consejos indecentes, pláticas profundas, inviernos deprimentes, como Thelma y Luis juntas hasta la muerte. Beh, insomma, mi piace che escano fuori tante voci femminili. Questa è così l'ultima voce che, in nome della rabbia che gira per Latino America, si sta facendo notare col suo microfono a fare l'NC. Allora, perché mi sfregavo le mani? Perché sono stanca, raga, non ce la faccio più. Sono abbastanza provata. Intanto perché seguire il Cile per un mese con tutto che io qua sto, è chiaro, quindi non cominciate, no? In questo mondo di dissapori, de asti, de competitività, de tra di noi c'è puzza il culo, se guardiamo, se giudichiamo, non faremo mai niente, raga. Questo è proprio l'atteggiamento che ci divide e che io so che permea la mia città, raga. Insomma, diciamo che non sto proprio qui da ieri. Allora, io vorrei, tristemente, perché invece io avrei voluto far scendere un simpatico silenzio su Daniela Carrasco, perché è quello che è stato chiesto. Ahimè, in questo paese non è possibile. Nessuno come l'Italia si è occupato del caso di Daniela Carrasco. Già, chissà perché, chissà perché ci abbiamo tanta voglia di chiacchierà. Forse perché è meglio pensare a Daniela Carrasco che a tutta una serie di donne che devastano qui, di cui i giornali scrivono delle cose improponibili, no? Invece poi l'etica si impara. Allora io ne voglio parlare poco, intanto perché la famiglia ha chiesto silenzio, ha chiesto rispetto, e questo è esattamente quello che credo che sia accaduto, sia proprio la mancanza di rispetto, il dover essere i primi ad avere la notizia, i primi a spammarla, i primi a vederla, i primi a scriverla, i primi a metterla su Facebook, giusto? Ok, allora io non sto a aprire qua le decine di articoli che mi sono piovuti, addirittura qualcuno ha la modestia di titolare La Verità sulla Mimo, simbolo dei manifestanti. C'hanno La Verità, non c'ha manco la giustizia cilena, invece qualcuno qui ce l'ha, dai, e gli aumenta il testosterone, si vede, no? Allora io adesso non voglio stare a fare parte di Emboli, poi va a finire che mi denunciano, perché io poi non sono una giornalista, quindi non so dov'è il limite per potersi fare salire il veleno e dove no. Allora io quello che vorrei dire è semplicemente, ora ve lo leggo, vi leggerò il comunicato della famiglia e da qui vi spiegherò 4-5 cose che una volta erano cose semplici e scontate e che evidentemente stiamo peggiorando, raga, perché di solito davanti a notizie come questa noi un'attitudine avremmo dovuto avere, una, che è quella che non c'è neanche balenata per l'anticamera del cervello, perché ormai siamo dei replicatori di social network. Questo siamo, raga, mi ci metto pure io, perché non mi va che poi la gente mendica e tu chi pensi d'essere, già mi sono sentita di 2-3 volte, allora sei meglio tu. No, raga, non sono meglio io, è che ci sono delle cose, in bicicletta ci si va pedalando, se devi rallentare ci sono i freni, ci sono due modi di frenare. Per dare una notizia ci sono due modi di farlo: o apri la bocca e gli dai fiato rischiando di dire cose non vere, oppure cioè, cerchi di dare un senso a quello che dici, portando rispetto alle persone di cui parli. Allora, io adesso ve lo apro, scusate, vi faccio sentire la musica, intanto me lo metto qua sotto, così intanto respiro pure, perché oggi sono venuta qui coi lacrimoni per questa storia. Per noi, la tristezza me la faccio a noi stessi. La traición no nos corre por las venas. Nadie dijo que somos de estas perfectas. Al contrario, vamos a bañarnos juntas en la hoguera. Malos ejemplos, comportamiento imprudente. Fines de semana, consejos indecentes. Pláticas profundas, inviernos deprimentes. Como Thelma y Luis juntas hasta la muerte. Que brindo por ellas. La flama está que arde. Flores, vino. Hoy es noche de aquelarre. Amiga, ven. La flama está que arde. Que no muera la flama. Que brindo por ellas. Que... Allora, tra l'altro questo comunicato lo potete trovare anche sulla pagina di AboFemCL Cile. AboFem come Abogadas. AboFemCL, Abogada Femminista de Cile. Dichiarazione pubblica sulla morte di Daniela Carrasco. Il 20 di ottobre, in pieno esplosione della crisi che fino adesso sta attraversando il nostro paese, il corpo senza vita di Daniela Carrasco, 36 anni, anche conosciuta come la Mimo, è apparsa nella comuna Pedro Aguirre Cerda. E in mezzo alla cospirazione di questi giorni, sono state messe diverse dichiarazioni da organizzazioni e collettivi indicando che ci sarebbero prove di accanimento sul suo corpo, tortura, e che il crimine era stato realizzato da agenti dello Stato. Appena la notizia è arrivata alle orecchie di AboFem, le nostre socie si sono mosse in contatto con la famiglia e oggi hanno preso il caso in maniera gratuita, no? Come gratuito patrocinio. È per questo che, nonostante non ci siamo mai riferite a casi che seguiamo, dato il nostro impegno etico di non rivittimizzare a chi ha fiducia in noi, vediamo la necessità di esigere dalla cittadinanza e anche dai mezzi di comunicazione che non continuino a diffondere informazioni senza fonti verificate. Desde AboFem, da AboFem, incitiamo a rispettare tanto la memoria di Daniela come la sua famiglia, che in numerose situazioni ha chiesto cautela e un trattamento degno del suo dolore. Inoltre vogliamo chiarire, a richiesta della famiglia di Daniela Carrasco, che non hanno sollecitato nessun tipo di dinero, di soldi dalle reti sociali, né stanno vendendo oggetti con l'immagine di Daniela. Qualsiasi di queste situazioni non andranno a beneficio della famiglia e costituiscono un lucro che solo ingrandisce la tristezza della famiglia. Incitiamo la cittadinanza, le organizzazioni e i mezzi di comunicazione ad alzare lo standard etico e professionale, perché non si tocchi la memoria di Daniela né la sua famiglia, né si delegittimi il movimento sociale con notizie false senza fonti verificabili. Di tutti e ognuno di noi dipende dare un trattamento degno a ogni caso che appaia in questi giorni. Lamentablemente, tristemente, giorno dopo giorno continuiamo a vedere notizie false in mezzi di comunicazione nazionali e internazionali, che ci sembra assolutamente condannabile, soprattutto tenendo conto il nostro attuale contesto. Inoltre abbiamo visto nella nostra necessità di appoggiare la famiglia come ha sofferto il costante assedio da parte di giornalisti e curiosi, che si somma al nostro lavoro di sollecitare e verificare che da parte del Ministero Pubblico si realizzino tutte le con la diligenza investigativa pertinente per condurre le indagini e azzittire qualsiasi partecipazione di terze persone in questo triste evento con la più grande diligenza. Vogliamo inoltre ricordare che le indagini, e qui vi prego di alzare il volume, fare silenzio, ascoltare e prendere queste parole. Vogliamo ricordare che le indagini per chiarire le circostanze della morte di Daniela sono ancora in corso e che i precedenti che fino a ora si hanno nelle mani indicano che avrebbe lasciato una carta spiegando le ragioni di un eventuale suicidio e che non sono stati trovati segni evidenti o segni di tortura o aggressione sessuale. Non si sarebbero. Indichiamo in ciò che abbiamo scritto sopra, senza pregiudizio su ciò che gli informi medico forense possano indicare, qualcosa di differente da ciò che è stato scritto sopra. Allora, queste sono le tre pagine di comunicato delle avvocate che stanno accompagnando la famiglia di Daniela Carrasco, una famiglia umile, una famiglia spaventata, una famiglia sotto assedio, come abbiamo visto. Ed è giusto così, perché Daniela Carrasco non è morta, nessuno lo ha detto e nessuno l'ha vista. Daniela Carrasco ancora non si sa se si è suicidata, la verità non ce l'ha nessuno. Cristo è morto di freddo e Santiago Maldonado è morto di freddo, è stato 2 mesi in un fiume e il suo corpo non aveva un graffio. Cosa vi voglio dire con questo? Vi voglio dire che intanto la giustizia è quella che è, la conosciamo, la giustizia che sta portando avanti queste indagini è la giustizia dello Stato cileno. Leggete qualcosina sul giornale di quello che sta succedendo in Cile, sì, immagino, no? Ne parliamo qui. E la giustizia è la giustizia di quello Stato, no? Devo aggiungere altro? E a quello che io voglio aggiungere è che invece di mandarmi 8 articoli al giorno e chiedermi se li commento, noi dovremmo capire che non è segnalando a me articoli assurdi in cui si dice che è morta che si fa verità, ma avendo ognuno noi in coscienza che se uscirà questa dichiarazione, che c'è una lettera, noi dovremmo stare qui a dire che la lettera la vogliamo vedere. Chiaro? Vi devo ricordare, io ve lo voglio ricordare, il caso di Macarena Valdés. Vi voglio ricordare il caso di Santiago Maldonado, perché è ancora più giusto che quando le persone spariscono e l'ultima volta vengono viste nelle mani delle forze dell'ordine, è ancora più giusto che si taccia e si presenta e si pretenda che si esca ufficialmente per vedere qual è il livello di menzogna o di dichiarazione che si riesce a fare e poi poterla, averla scritta, averla ufficiale, per poterla smontare, per poterla commentare, per poterla chiedere in un altro modo. Certo, non abbiamo il potere sopra questa giustizia, la rivoluzione non l'abbiamo fatta, è inutile che pensiamo, no? Abbiamo però la capacità di fare un'analisi nostra, di continuare a stare nei movimenti accanto alle persone e di rivendicare la nostra verità. L'abbiamo fatto con Ruben Collio, le iniziative a cui siete venuti sono servite per pagare un'altra autopsia per Macarena Valdés, un'autopsia che dopo che la giustizia aveva detto no, si è impiccata da sola, non è stata soffocata, altre due autopsie hanno detto no, è stata soffocata, non ci sono segni di evidenza ed è chiaro che la prima autopsia era di parte. Allora noi abbiamo un piccolo potere nel nostro primo mondo, in mezzo alla nostra orgia di privilegi di cui neanche ci rendiamo conto. Abbiamo due piccoli poteri, uno quelli di rinvertire un po' dei nostri soldi e rimandarli laddove rubiamo, no? Quindi ogni tanto nel nostro piccolo qua mette insieme un po' di soldi e mandarli, no? Appoggiare progetti, appoggiare campagne, fare raccolte, no? Quanti collettivi ce lo raccontano. E poi forse riuscire a mantenere un po' accesa quell'attenzione internazionale che no, non fa giustizia. Non fa giustizia, ci fa sentire semplicemente un po' più utili nel fatto che probabilmente ci sarà una pietra in più sulla coscienza di chi scriverà determinate cose e vorrà parlare di quella verità. Un altro dubbio che io ho, devastante, che è quello che si cerchi di legittimare i movimenti di Non Una di Meno, perché io mi sono commossa, mi sono emozionata quando ho visto tante Daniele Carrasco al corteo di Non Una di Meno, quando siamo state sedute 3 minuti, quell'urlo, io che sono una criticona e che non sto bene da nessuna parte perché ce l'ho sempre per tutti, mi sono drizzati i peli, perché comunque lì c'erano tutte, quell'urlo era l'urlo di tutte quelle che non c'erano e io neanche me l'aspettavo di vedere Daniela Carrasco sul camion attaccata lì su quel bel camion, no? E portarla insieme a noi, non me l'aspettavo perché io non l'ho seguita le assemblee di costruzione di quel percorso, quindi non lo sapevo. E allora io mi chiedo di chi è il peccato di ragionare con empatia nel momento, non lo so, io mi chiedo se forse anche noi avremmo scritto un comunicato con delle parole in più, sempre che quelle parole poi non siano venute da qualcuna che ha visto, sempre che, perché vi ripeto, c'è sempre un sempre che quando la giustizia parla da questi canali, passa da questi canali, quando la giustizia la deve fare lo Stato, e purtroppo sono ancora gli Stati che la facciamo, che non significa che noi non abbiamo armi di informazione, armi per leggere le cose, armi per non farci abbindolare, insomma. Quindi io direi chiudiamo un po' di social media, impariamo a tornare a prendere le notizie da dove è giusto che le notizie vengano, a non sostituire i social media con l'informazione, perché io ho chiarissimo che cosa è successo, da dove è partito questo scoppio, no? A catena, questa esplosione a catena per cui poi sbah! Daniela Carrasco in Italia, è il caso nazionale, che non lo è in Cile. Allora io oggi vorrei chiudere qui il caso di Daniela, vorrei lasciarle la pace, sicuramente il ricordo ce l'abbiamo nel cuore tutte noi, parleremo di pagliacci, chissà, no? Io credo che noi abbiamo fatto una cosa bellissima in quella piazza e vorrei chiudere qui veramente, vorrei anche non leggere più articoli che cercano appunto, come dicono con lucidità le avvocatesse, non smentire i movimenti perché sanno quanto c'è bisogno di quei movimenti, soprattutto in Cile adesso, no? E quanto però bisogna fare anche attenzione a non fare il gioco del nemico. L'attenzione del nostro corteo dell'altro giorno serve sulla storia di Daniela, è utile, è un enorme fare acceso su di lei, per quanto piccolo ci sembri, chiaro? E quello che io credo che dobbiamo fare è invece riuscire ad avere l'intelligenza di non fare il lavoro del nemico, di respirare, di tenere la memoria e poi quando è il momento dare la nostra lettura di ciò che la giustizia borghese in questo stato, in questo caso per quanto mi riguarda anche molto più fascista del fascismo proprio democratico Vignera, ci dirà. questo io lo credo profondamente. Chiuderò qua. Chiuderò qua, così questa mia arringa veramente devastata, perché non voglio più io leggere articoli su Daniela, soprattutto in italiano, soprattutto di giornalisti italiani, che, a cui chiedono, perché non si interessano così di violenza, che ce n'è tanto bisogno, e se fanno un bel corso imparando a, così, a parlare dei femminicidi con un po' di decenza, visto che poi quando parlano di noi lo fanno veramente in una maniera infima. Ecco, mi sono un po' scaricata, adesso ho bisogno io. Insomma, scherzi a parte, come potete capire, insomma, non è semplice così mettere un distacco su questi temi, e quindi ecco, io adesso respiro un attimo, metto un pezzo con cui voglio salutare nel nord Europa le mie amiche Proxy e Giulia, che sono due colonne totali, shakerate insieme, poi boom, non dico dove state perché non voglio rogne, e voglio salutare Laura, a cui faccio gli auguri, e noi ci risentiamo con Marcello Galai tra pochissimo, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Ese pa' allá quiere estar sola. Ni lujo ni joya tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata. Busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me mira por detrás. Te la va a liar, te la va a montar. Te la va a liar, te la va a montar. ¿Qué? Te la va a liar, te la va a montar. Te la va a liar, te la va a montar. Me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. Que no pueden discrepar, hacerse adictas. Que no vuelvan jamás, eso es cosa suya. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa. Salgo de casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojos restregado hasta la frente y el abrigo lleno mierda siempre. Ma, ma, mamá, masiva, ¿dónde vas? Con esa pinta no puedes entrar, tu pelo te rompo tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana. Más polémicas que la barba de mi hermana. Sácate mi tabaco, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida, familia, normal que de mí no se fíe. Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica. La que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda no mola ya, chica. Si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Pa' que resista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón. Las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es levo, kiki, rap, gran feminista. Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Se referencia. Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Se referencia. Leyendo Eric Fromm, escuchando a Cameron, dando charlas de formación o bebiendo ron. Sexo, traumas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo pa' tanta gestión. Estoy reconstruyendo lo de la autodestrucción. Dando palmas y cantando con acento charnegado. En la calle, en la vaina, en el parque de al lado. El polito impoluto, el pelo siempre despeinado. No cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano más pereza depilarme. Lo siento, mamá, nunca seré doctorada, pero mira qué bonita mi manada. No tengo pa' nénica, nénica, che. Tengo a mi comadre pa' pasarlo bien. La única que tal no sé responder. El amor que estamos, no quiera saber. El caos de siempre, ma, ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que. Yo no sé lo si la mona de la peli. Yo soy la mala habla que tiene aleta los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me Allora, come io vi avevo promesso, di nuovo al telefono con Marcello da Santiago. Allora, Marcello, come stai? Sempre meglio? Sei un toro. Siempre mejor, estoy mejor y tranquilo en casa, tratando de hacer un poco recuperándome, y también como muchos otros que se están recuperando también, sí. Porque no soy el único, ha habido mucha gente, ya hace un par de noches a una trabajadora que esperaba un autobús para ir a su trabajo, la policía le disparó a mansalva una lacrimógena, le fracturó la nariz, le sacó un ojo prácticamente, y todo indica que va a quedar ciega, como ocurrió con Gustavo Gatica, que se confirmó el día 26, para infortunio de todos nosotros. Chiaramente io gli chiedo come sta, perché insomma, sapendo che ha de gente dopo i perdigoni che ha preso, come ormai saprete, chiaramente lui mi dice sto recuperando, come stanno recuperando tanti e tante altre che sono stati feriti come me, perché questo è quello che stiamo soffrendo. Ed è appunto, io ve l'avrei raccontato, gliel'avrei chiesto, è di ieri la notizia che una donna che stava uscendo di casa per andare al lavoro, neanche partecipare alla manifestazione, è stata colpito al volto da distanza vicinissima da un lacrimogeno che gli ha distrutto parte della fronte, il setto nasale, le ha praticamente fatto uscire dall'orbita un occhio, e è notizia di oggi che perderà ambedue gli occhi, così come Gustavo Gatica, che appunto è un compagno che qualche giorno fa era stato ferito agli occhi, perderà ambedue gli occhi. Creo che lo conmovedor es la palabra de Gustavo Gatica. No se ha parado ni un segundo, no se ha quitado el coraje ni un segundo, ¿no? Y ha dicho a su compañero, sigan viendo por mí, sigan rebelándose, ¿no? Gustavo Gatica ha avuto delle parole devastanti a quanto mi riguarda. Non si è fermato un secondo, non ha perso il coraggio un secondo, ha invece sempre mantenuto alta la testa e ha detto ai suoi compagni, voi che avete gli occhi continuate per me. Así es, o sea, la gente continúa en las calles, las manifestaciones en lo que es el centro de las grandes ciudades, que han sido violentamente reprimidas, pero también un pueblo que ha respondido con mucha violencia de clase, con una juventud, que ya te lo he dicho, lo sí. Han visto, lo saben, con un montón de coraje allí en la ya llamada y legitimada primera línea, la prima línea, ¿ya? Sí. Donde hay una juventud que no para, que no y que da cuenta de un pueblo chileno que no está creyendo las movidas que hace el gobierno y toda la casta política. Sì, chiaramente appunto, sì, lui diceva questo è quello che sta succedendo adesso, questa gioventù potentissima, la prima linea, ormai la prima linea è un'istituzione, sono quei ragazzi giovanissimi, coraggiosissimi, che col sorriso si mettono in prima linea a difendere gli altri che vogliono manifestare, e danno la dimostrazione di essere un paese che non crede più, non si fa più prendere in giro, non ha nessuna intenzione di fermare la propria resistenza e non ha nessuna voglia di farsi prendere in giro. E se pueblo no se hace bromear, perché mientras tanto nel palacio sigue il circo un poco, no? Entonces, sí, claro. Sí, cómo a recoger la demanda del pueblo, vamos a hacer un grupo técnico, ¿no? Da mucha risa eso. Sí, porque, mira, muchos nos han preguntado, tuvimos la oportunidad de participar vía Skype en una actividad con compañeros a Milano, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué es lo concreto que plantea el pueblo? ¿Cuáles son las demandas? A mí me gustaría aclarar un poco eso para quienes nos escuchan, porque seguramente es una duda que pueden tener allí por un tema de idiosincrasia, por la distancia, porque somos, en América Latina somos pueblos, somos muy particulares, ¿no? Las demandas populares están instaladas, ¿no? Es la salud, es la educación, es el acceso a la vivienda, es los derechos fundamentales que todo pueblo debe tener y que en este país fueron privatizados, que están en manos de algunos. Aquí en este país falta que, perdona la palabra, que nos privaticen el aire, que nos privaticen el culo. Sí, sí. Solo eso basta, ¿no? Vabbè, giustamente lui diceva che hago pedacitos y no me pierdo cosas. Allora, lui ha partecipato via Skype con i compagni della rete a un'iniziativa e giustamente la domanda era, ok, però adesso che cosa chiede il popolo, che cos'è che vuole il popolo, no? Quindi calcolando che partiamo da una situazione, per esempio, di privatizzazione di tutto, insomma, lui si scusa ma dice qua in Cile ci manca che le uniche cose che ancora non ci hanno privatizzato sono l'aria e il culo, praticamente. Certo. Entonces, ¿cuáles son las respuestas del gobierno? además de la violenta represión que ha continuado, ¿no? Y que se manifiesta sobre todo por las noches en los territorios populares, donde la gente sigue en la calle, la respuesta son las migajas de siempre, esto de anunciar un aumento de las pensiones, rebajar el valor del transporte público a los mayores de 65 años, una propuesta de elevar el sueldo mínimo, es decir, un montón de cosas que nunca hicieron, que ahora sí las quieren hacer, porque lo que está de fondo allí es que ellos, y me excuso nuevamente por usar el término, pero quieren salvar el culo, sus privilegios, y quieren cocinarlo a su modo. Certo, allora chiaramente davanti appunto alle richieste di rivedere il paese dall'inizio è stata risposta con delle piccolissime misure, di nuovo dopo quelle che erano state date, quindi di nuovo un aumento minimo delle pensioni, un abbassamento minimo dei trasporti pubblici per i maggiori di 65 anni, quindi diciamo tutte quelle piccole manovre che secondo loro dovrebbero essere un po' lo zuccherino per calmare il popolo e che non servono altro che a cucinare questo minestrone per mantenere i propri privilegi, per non cadere e non dover ricominciare a lavorare, ma invece mantenere proprio, appunto, come dice lui, salvarsi e mantenere proprio tutti i loro privilegi. Entonces, lo que está ocurriendo, y ahora, en términos de estas preguntas que se hace mucha gente allí, en todas partes, que nos preguntan de distintos lados, ¿qué queremos, no? Claro, está esta demanda de una nueva constitución, de acabar con la constitución del 80, que es la constitución de Pinochet. Pero esa es una idea fuerza que recorre las conversaciones, recorre el aprendizaje de este pueblo. Y resulta que este gobierno y esta clase política, y allí caben todos, ¿no? La socialdemocracia, la oposición, el Partido Socialista, el Partido por la democracia cristiana, ni hablar, estos partidos socialdemócratas inventados al calor de estos 30 años, ¿no? Entonces, sí, ok, hagamos una nueva constitución. Y proponen una comisión técnica que se va a hacer cargo de sentar las bases de esta discusión para una nueva Carta Magna, y resulta que nos encontramos con que son los mismos de siempre, que sí. Tienen vínculos con los poderosos, que tienen vínculos con empresarios, que han defendido a empresarios, que políticos, claro, que han estado, digamos, investigados por malversación de fondos, por financiamiento ilegal de la política. Entonces, aspetta. Oltre chiaramente quello che il popolo vuole e che si è molto sentito dire anche nelle chiacchiere, chiaramente l'abbiamo sentito tutti noi, una nuova costituzione. La costituzione che c'è adesso è quella degli anni 80, che era stata scritta per tre quarti da Pinochet e che ha portato poi al sistema alla non democrazia e alla privatizzazione, al sistema di cose presenti in Cile. La gente, che come diciamo da settimane ha ricominciato a parlarsi e quindi si autoinforma, si autoforma su quello che si può fare, poi gente che non ha mai parlato di politica, che non sa neanche come funziona il paese, ce l'ha proprio con questa classe politica, e quindi nel momento in cui bisognasse cambiare questa classe politica non ci salverebbe più nessuno, non ci sarebbero comunisti, democristiani, non ci sarebbero diversi partiti della socialdemocrazia che si sono formati in questi 30 anni. E un altro tentativo quindi è stato quello di voler soddisfare questa richiesta e fare un comitato tecnico che dovrebbe essere quello che fonderebbe la nuova costituente. Senza che nessuno si sorprenda, questa commissione tecnica è formata da impresari già finiti per in mezzo, per tangenti, per corruzione, per varie cose, e adesso lui ci racconterà meglio chi sono questi personaggi. Ossia sono la parte da atrás della misma classe politica, quindi sono la parte dietro della stessa classe politica. Son los mismos hijos de la... los mal nacidos, en realidad, porque las putas no tienen la culpa, en realidad. Son los mal nacidos que solo que están... están poniendo a salvo su privilegio. O sea, una oposición política al gobierno que cierra filas con el gobierno respecto de la violencia, de esta ley que ahora Piñera propone ayer temprano por la tarde, le mete presión al Senado, el Senado sesiona de noche y aprueba la idea de legislar sobre una ley contra los encapuchados, responde a eso, quieren poner a salvo porque están acorralados y no tienen salida. Y eso es lo más importante, lo que yo relevo y me gustaría enfatizar para quienes, los compañeros y todos quienes escuchan, la gente no está creyendo en la calle, desde el más organizado hasta el más despolitizado de este pueblo no cree, no no cree, lo dije el otro día en una actividad de los compañeros, esta revuelta popular nació en la calle, está creciendo en la calle, está madurando en la calle y va a morir en la calle, y la gente lo dice, ese, uno lo pulsa en la calle, la gente no está dispuesta a comerse de vuelta el cuento de hace 30 años. Allora, chiaramente, appunto, lui diceva che appunto questo comitato tecnico è formato dagli stessi poveracci, lui dice, perché una volta si diceva figli di puttana, ma le puttane sono con noi in strada, quindi non hanno nessuna colpa in questo. Anche da lì ci arrivano lezioni, e quindi voglio dire, sono proprio i poveracci, nel senso la gente schifosa che appunto cerca ancora di arrampicarsi sugli specchi e mantenere il proprio privilegio. Il presidente Pignero, tra l'altro, appunto di notte, l'altra sera, ha provato a far passare questa legge, no, sono quelli che continuano a raccontare questa storia dei violenti, degli incappucciati. Pignero l'altra notte al Senato appunto ha cercato di fare passare questa legge contro gli incappucciati, insomma basta che andate a vedere i cortei, ci stanno anche le nonne incappucciate, ma per motivi di sicurezza, e che è comunque una manovra a cui il popolo non crede. Ma quando lui ci dice il popolo non crede, non ci crede dal ragazzo più politicizzato al meno politicizzato, a quello che semplicemente per non farcela più si è unito agli altri, adesso sta nella prima linea perché non ce la faceva più. Questa cosa l'abbiamo raccontata spesso, ed è una cosa che lui vuole enfatizzare, a cui vuole dare valore, è proprio il fatto che nessuno gli crede più, non c'è una massa politica come lui, che è scesa in piazza, è sceso un popolo che si è fatto massa politica e che prima non lo era, ci dice appunto che questo è una rivoluzione, una ribellione che è nata nelle strade, durerà nelle strade e morirà nelle strade, perché nessuno ha voglia di andarsene finché il livello di risposta sarà questo. Y mira, yo te agrego a eso, querida Marta, y a todos los compañeros que escuchan allí, una cosa súper importante, a propósito de las preguntas, de las inquietudes que tiene mucha gente sobre qué propone el pueblo, ¿no? La pregunta también es, bueno, ¿y en qué va a terminar esto? Se lo preguntan aquí muchos también, nos lo preguntamos todos. Pero la lectura inmediata o la respuesta inmediata, en lo personal y que comparto con mucha gente, esto es una revuelta, está allí, está madurando, es un parto, este es un crío que va a nacer, ¿no? De tal manera que nadie tiene aquí una bola de cristal, ¿sabes lo que? Pero sí está en ese parto, algo va a ocurrir, que de momento no lo sabemos, pero lo más importante, que es la riqueza, es lo que hemos ganado, hemos vuelto a encontrarnos como pueblo, hemos vuelto a reconocernos, a hablarnos, y naturalmente en ese hablar van creciendo, son gérmenes de organización, de solidaridad, de disposición de lucha, disposición de no volver a creer en quienes nos mintieron, etcétera. Esa es la riqueza que tiene este momento, además de, bueno, la tristeza y la tragedia que significa los muertos que hay, la cantidad de gente herido, los más de casi 2.000 presos, ¿no?, en las prisiones a lo largo del país. Te hablo de jóvenes, niños, mujeres, trabajadores, etcétera. Allora che ok, niente, Marcello è caduto, io allora lo richiamo subito. Intanto vi volevo vi traduco questa parte. Chiaramente a lui molta gente, tra le varie domande che gli fa anche nello stesso Cile, qualcuno gli chiede come finirà tutto questo. E fa un po' paura sentirlo, però lui personalmente dice che questa è una rivolta, è una sorta di parto, nessuno sa come finirà, è una cosa proprio, una cosa che sta uscendo, una cosa che si sta costruendo, e quindi nessuno ha la palla di vetro per sapere che cosa succederà. Ci sono però delle certezze, questo movimento, questa rivolta li ha fatti incontrare, ha fatto svegliare il popolo cileno, li ha fatti incontrare, li ha fatti parlare, e da queste chiacchiere tra gente che prima neanche si sarebbe guardata è uscita organizzazione, è uscita solidarietà, è uscita disponibilità nella lotta, è uscita modo di organizzarsi, e questa è una ricchezza enorme da cui non si tornerà più indietro, e non mi sembra che sia, tra l'altro, una cosa insomma particolarmente piccola. Allora io un secondo di musica, torno a chiamare Marcello e torniamo in voce da voi. Thank you. comienzo de la vida no estuvimos, no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de, mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora te vas al infierno. Me llamo Diana, madrina, no te prendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, acepto mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la psique. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas. Allora, eccoci di nuovo, eccoci di nuovo. Non ci fermerà il telefono, Marcello. Ok, ok. Sì, claro, es una riqueza, un pueblo que se despierta, un pueblo que vuelve a hablar. Eso es algo que no va a retroceder. La gente ya se ha despertado, ha conocido qué significa hablarse, ¿no? Significa la fuerza que le ha dado. Sí, y esa es la riqueza, porque en un primer momento, cuando se hacía las primeras semanas de la revuelta, la convocatoria era no hemos ganado nada, cuando surgieron las primeras respuestas, comillas, respuestas de este payaso, de y con el perdón de los payasos, de Piñera, la gente dijo, no hemos ganado nada, pero en el fondo, y por eso hacía el énfasis, ¿no? Lo que se ha ganado es eso, ¿no? Que nos hemos encontrado, que hay un pueblo que a nivel territorial se está reconociendo. Hoy hablaba con la madre de tres compañeros asesinados en dictadura, los hermanos Vergara Toledo, hablaba con Luisa, que es muy amiga mía, y ella me decía, me tocó ver a señoras que antes no se metían en nada, que denostaban a los encapuchados, los jóvenes combatientes, etcétera, y allí están en la esquina cada noche tocando la cacerola, exigiendo derechos. Entonces esa es la ganancia que tenemos por ahora, y por eso me gustaba hacer que tenía ganas de hacer ese énfasis de hacerle ver a muchos que es la característica propia de una revuelta que todavía es una inorgánica, que está creciendo, que está madurando, y está madurando allí en la calle. Sí, insomma, chiaramente questo è un patrimonio bellissimo. L'altro giorno lui parlava con una donna che ha tre figli che sono spariti nella dittatura, che stava in piazza con loro, non si fermava a lottare, e mi diceva, siete riusciti a svegliare persone che non si erano mai mosse, persone che stavano lì e anzi fino all'altro giorno gridavano contro questo, contro quello, ogni volta che c'era una manifestazione contro gli incappucciati, adesso invece sono lì all'angolo del loro quartiere a fare, insomma, il casserolasso continuamente, e questo è, come lui diceva, una rivolta, è una cosa che non ha una forma, che lievita, che cresce, che non si sa dove andrà a finire, ma il bello di questa rivolta è che comunque lievitando dentro è piena di cose che accadono, di questioni che si muovono, di cose che si muovono e che accadono. Per questo lui voleva mettere un po' l'enfasi su questa cosa, perché credo che sia, magari lo facessimo noi qua, una ricchezza unica. Ecco. Sì, io he visto también que se resiste, exactamente, ¿no? Que se alternan, acá llegan vídeos de tremenda represión, actuación de violencia, momentos pesadísimos, muy asustante a verlo, y al lado de tremenda alegría, tremenda dignidad, baile en la plaza, coros, bandas, música, todo lo que es el orgullo de la revolución sin miedo, ¿no? Claro, con eso hay la violencia, hay la opresión, hay la masacre, la tortura, eso no se olvida. Pero yo creo que las caras y el coraje de estos jóvenes son algo alucinante, insomma, increíble, que nunca habíamos visto. Sí, eso es súper importante de destacar, porque una de las cosas que ha hecho el gobierno de Piñera, y ya alineó a incluso a la oposición política, ya sacaron una declaración, ya estos emblemas del Partido Socialista, ¿no? Que ellos dicen que lucharon contra la dictadura, y ya se alinearon con el gobierno para atacar y denostar a la manifestación, separar de los pacíficos y atacar a los violentistas, a los encapuchados, a los que saquean. Pero allí los que saquean son una juventud que tiene clara la cosa, ¿no? Que tiene mucha rabia por lo demás, y que no saquea el negocio del vecino, no ataca el negocio del vecino, sino que la los símbolos del capitalismo, en el fondo, del neoliberalismo. Saquea el Apple, digámoslo, saquea el Microsoft, claro. Sí, saquea el Microsoft, saquea el McDonald's, saquea el Benetton. Acá lo decimos, sí, acá le decimos que lo sancionamos, somos más criaditos. Sí, cierto. La gente tiene esa claridad. Y hay una, y tú decías, hay una alegría, ya, dentro de todo el dolor que significa, particularmente jóvenes muertos. No sé, el otro día hay una imagen violentísima de un muchacho que lo golpea una bomba lacrimógena en la cabeza, sus compañeros intentan ayudarlo, la policía lo casea, el muchacho empieza con convulsiones, y los policías lo arrastran, y cuando se dan cuenta que está mal, que está con convulsiones, lo dejan allí. El muchacho finalmente de 22 años, terminó con un derrame cerebral, está hospitalizado, y ellos no se hicieron cargo. Pero así se ríen, no sé, hay imágenes donde el policía dispara sonriente, la policía se saluda a quienes le insultan. Es una violencia por parte del Estado que ha sido respondida con una violencia de clase que claro, que cuesta sangre y que seguramente va a seguir costando sangre, porque esto no va a parar, no se va a detener. Sí, sicuramente, appunto, c'è un orgoglio, una dignità in questa lotta, però appunto, come diceva, la repressione è una cosa assurda, sono sorrisi che stanno lì e non perdono la memoria invece delle persone che sono anche morte. L'altro giorno appunto c'era l'immagine di questo ragazzo a cui l'Opagos tirano un candelotto proprio in faccia, e questo ragazzo comincia ad avere le convulsioni, i suoi compagni cercano di soccorrerlo e i militari continuano a reprimerli finché prendono questo ragazzo, lo stanno trascinando, quando si rendono conto che questo ragazzo ha delle convulsioni lo mollano e lo lasciano lì. E questo è quello che sta succedendo. Non so, noi forse abbiamo così la sfiga di tanta informazione, però questo è quello che sta succedendo, perché questa è una cosa che non si fermerà, che continuerà nelle piazze. Sì, e è il messaggio che mi gustaría a mí transmitirle a todos, y bueno, junto con agradecer la solidaridad que cada uno por allí en cada rincón del mundo expresa. La preocupación, el estar pendientes de lo que ocurre acá, y que no solo ocurre acá, está ocurriendo en Latinoamérica, ¿ya? Está ocurriendo en Colombia, no nos olvidemos de Haití. Haití lleva prácticamente 3 semanas de revuelta y van más de 50 muertos. Claro, Haití nunca le ha importado a nadie, ¿no? Haití es el país más pobre del mundo y nunca le ha importado a nadie, y ahora menos le va a importar a nadie. Pero está ocurriendo en Bolivia, Ecuador, a pesar de que no sigue, Brasil también, que está en una disyuntiva, en encrucijada frente a un gobierno fascista, declaradamente fascista. Entonces el mensaje es a profundizar la solidaridad, que también es un arma, y también a mirar un poco también en el entorno de los países de Europa. En Europa no es muy distinto tampoco lo que está ocurriendo. O lo que pasa con estos modelos de desarrollo económico, etcétera, que se basan en la explotación de los seres humanos, de la injusticia social, etcétera. Sì, chiaramente, appunto, quello che sta succedendo in Cile ha aperto una scia anche a tutto quello che sta succedendo in Sud America, perché non sta succedendo solo in Cile, insomma abbiamo visto la Colombia, abbiamo visto tantissimi altri paesi, e in parte è quello che sta succedendo anche in certi paesi di altri continenti, dell'Europa, perché il sistema, che è quello che non funziona, il sistema, quello che ci fa collassare, il sistema, quello, insomma, abbiamo visto a un paese qual è stata, no, a tanta violenza, la risposta della classe. Come lui dice, sono le classi che si stanno alzando, appunto, in tanti paesi del Sud America, ma anche in tanti paesi dell'Europa, perché la divisione in classi c'è anche qua, è il sistema che ci tiene così, ed è quella, e questa è la risposta che si sta dando con tanta forza, con tante differenze, ma anche con tanta forza, una critica totale a un sistema che non sta più reggendo. Sì, un modello che non dio abasto, nel fondo, è come, esatto. È la debacle. Acá ya se dice, o sea, el ímpetu, las ganas de esa juventud que está en la calle, de la gente que está en la calle, es decir, vamos a acabar la tumba del neoliberalismo. Santiago va a ser la tumba, o Concepción, o Valparaíso, o sea, Chile va a ser la tumba, Bolivia, pero hay que cavar esa tumba. Y esa tumba se cava con coraje, pese a los perdigones, las balas, las lacrimógenas, etcétera. Quindi appunto noi dobbiamo chiudere quella che sarà la tomba del neoliberalismo. Per tanto tempo Piñera stesso ha definito il Cile come l'oasi del neoliberalismo. Beh, il Cile vuole essere la tomba del neoliberalismo, il Cile piuttosto che la Bolivia, ma questa ribellione servirà a chiudere saldamente questa tomba, perché è proprio il sistema appunto che sta là da seppellire, ecco. Sì, che sea Chile sería merecido, después ser por tanto año la isla, el paraíso, ¿no? Se lo merecería ese pueblo. Va, yo parlo brutísimo italiano, pero hay una frase que se cierra así, dice: fino a cuando vivere valga la pena vivere. Fino a quando valga la pena vivere, esatto, esatto. Hasta que la dignidad sea la costumbre. Fino a que la dignidad sea una normalidad. Y otra cosa importante de recalcar, que ya tiene que ver con estas ganas, con este ímpetu que se palpa en las venas y en el latido de la gente aquí en Chile y de todos los pueblos latinoamericanos, y particularmente aquí en Chile, lo digo, por esa juventud que está en la calle. Estos desgraciados se metieron en un tremendo problema. Se metieron con una juventud que tiene una memoria de 5.000 millones de gigabytes. Y están en un grave problema con esa juventud, que no les va a perdonar nada. Entonces, esa es la esperanza también, esa es la esperanza que está ahí al calor de la primera línea, de las marchas, de las asambleas territoriales, de las barricadas en las poblaciones, de los enfrentamientos con la policía. Esa es la esperanza. Y eso es, me gustaría que les quedara ahí grabado a todos quienes nos escuchan. Allora, il problema è che questo paese sono messi in un, i politici chiaramente, e questo governo si sono messi in un grosso problema, ci dice Marcello. Si sono messi a provocare una gioventù, una generazione che ha una memoria unica, che ha 5 milioni qua dice di giga di memoria, che non si dimentica niente. E quindi si sono messi in un grosso problema, perché non si ferma questa ribellione, non si ferma questa gioventù, e questo è la memoria che ha questa generazione, farà in modo che questi si sono messi proprio nella merda, ci dice, perché non si fermeranno questi giovani. Marcello, io ti agradezco sempre moltissimo, non so se tu quieras agregar algo más. No, solo eso, darle la gracias a ti, gracias a la esquina del sol. Gracias a Radio Onda Rosa, a los compañeros allí por esa lucha que también dan, porque la comunicación también es importante. Sí, nos enteramos de eso. Hay que hacerle frente. Yo te escuchaba un poco lo de Daniel al principio, y claramente hay que ser responsable. No quiero abundar en eso porque tú fuiste muy clara con esa historia, pero dar las gracias a todos los que hacen desde su trinchera, en este caso la Radio Onda Rosa y otros compañeros de que hacen un periodismo independiente, la gracia que nos escuchan, invitarlos también a darle vuelta un poco a las realidades propias y por ahí encender esa mecha que Che Guevara alguna vez aquí en Latinoamérica le puso fuego, ¿no? Sí. Y hacer de eso, porque los pobres de acá son los mismos pobres allá en Roma, Milano, etcétera. Sí, la misma clase. Entonces, eso es como la invitación, y bueno, darle las gracias y seguir en contacto. Gracias por la solidaridad, por la preocupación, que aquí no se rinde ninguno. Bene, chiaramente lì non ci vuole ringraziare, ringrazia me il programma, appunto vuole ringraziare anche come che c'è molto bisogno di informazione, abbiamo visto quanto è difficile, abbiamo visto anche in altri paesi subito la prima cosa che viene tagliata è la possibilità ai mezzi alternativi, indipendenti di parlare, appunto ha sentito prima, ascoltava quello che ho detto su Daniela, non vuole aggiungere altro perché pensa che più che sufficiente quello che ho detto, di fare molta attenzione, spesso di andare a vedere con mano quello che succede, di andarci anche, perché è accrescente, cresce le nostre menti, cresce anche il nostro potere, perché i poveri che sono il Che Guevara, che ha partecipato a dare fuoco all'America Latina, a mettergli dentro una miccia che talvolta si accende, ci ha ricordato che i poveri di Latinoamerica, i poveri del Cile sono gli stessi, delle classi, appartengono allo stesso gruppo, alla stessa umanità, alle stesse classi dell'Europa, ci sono anche qui, e quindi di guardare, di apprendere e poi di portare qui quello che abbiamo bisogno da fare. Sì, sì, sería que se acuerden los acá los europeos también, que hay más de nuestros hermanos allá y que nos aprendemos algo para llevarlo acá, no solo nos ocupamos de ver tan lejos, ¿no? Exacto, eso, te doy las gracias, Martita. A ti, hermano, te abrazo mucho. Un abrazo para todos ustedes también. Gracias por, por esta oportunidad. Vale. Gracias. Chao, Marcelo. Chao. Insomma, ecco, io in tutte queste settimane senza Marcelo probabilmente non sarei mai stata in grado di così di riproporvi tanta bellezza, insomma, tanta bellezza della lotta, mica niente, tanta informazione. E allora io c'è un'altra cosa che vediamo se riesco a farvi sentire, che mi sarebbe piaciuto un po' usare da sigla oggi, vediamo se riesco a farvela sentire in qualche modo. Intanto vi mando la musica. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo usted parece, prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan, cuando nos matan. Con precintos que atan. Que fake está mentira y este show que nos montan. Vabbè, lo sapete tutte che sta succedendo, vero? Che facciamo? Ognuna di noi la fa a casa sua? E poi però mi mandate il video sulla pagina delle Schiene del Sol, perché io ve voglio vedere. Fatemi un po' di trilli a vedere se siete pronte, perché l'abbiamo visto tutte, tutte lo rifaremo in un modo o nell'altro, tutte lo canticchiamo da 3 giorni. Es la violencia que ya...